Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. I'm having an old friend for dinner. Ciao Giulio, è presto. Ho appena accompagnato la mia ragazza alla stazione per andare a lavorare e per strada le raccontavo del tema della settimana scorsa, il peggior concerto della vostra vita. Tema di cui sono venuto a conoscenza solamente ieri, in quanto oramai seguo solo il podcast. Quando mi piace qualcosa tendo a farne partecipe tutte le persone che mi circondano. Mentre le raccontavo il mio peggior concerto della settimana, riflettevo sul fatto che non avrei avuto mai tempo per raccontare questo concerto. Poi, tornando a casa, ho acceso il computer e visto che devo aspettare ancora 2 ore prima della tesi di Tommaso, ritaglio 20 minuti per farti partecipe di questa infelice esperienza, anche se so di essere in ritardo sui tempi. Era il, credo, 1995, circa. Un anno prima dovevo andare a Roma, ne ho patentato, assieme al mio compagno di sventure live Teo, a vedere il concerto dei Nirvana, ma pochi soldi in tasca e poca convinzione ci fecero dire «si va alla prossima». Detto fatto, dopo qualche mese tutti sanno come andò a finire quell'esperienza. Dopo un anno appunto passarono i Soundgarden in quel di Bologna ed anche lì l'indolenza della nebbiata Romagna stava per paralizzare gambe ed orecchie. Quando ci è passato un lampo per la testa, ci siamo guardati e ci siamo detti «andiamo, non si sa mai». Arrivai carico di aspettative e di emozioni per quello che a mio parere era stato uno dei migliori fenomeni di quegli anni, gli anni dell'adolescenza, anni in cui la musica ti offre la possibilità di sognare e di credere in un mondo migliore. Beh, riconosco il valore assoluto dei colleghi Alice in Chains o Pearl Jam, ma i primi erano troppo depressivi per quell'età fatta di fuochi ed alte velocità, e i secondi erano troppo bravi. Così i Soundgarden mi offrivano una musica alta, veloce, dirompente e profonda. L'aspettativa era tanta quanta fu grande la delusione per un gruppo di musicisti annoiati e fiacchi. L'assenza di motivazione comprometteva ogni passaggio. Il culmine si raggiunse quando uno sparuto gruppo di ragazzi delle prime file cercava di animare quello che si presagiva essere la fine di un'esperienza. Allora Cornell si è fermato e, invitando al silenzio con il soffio, si mise a canticchiare una ninna nanna per placare gli animi. Penso che ogni artista abbia il diritto di ritirarsi dalle scene quando meglio creda, o di dirigere il proprio percorso artistico verso strade differenti, ma credo anche che abbia l'obbligo morale di farlo con dignità. Dà una gran tristezza oggi vedere Cornell, che quasi quarantenne fa il ragazzino negli schiavi del suono, assieme agli altri tre che anch'essi pare abbiano perduto per strada molta della dignità che gli attribuivo. Fa ancora più tristezza non aver più traccia di Ty Hill, che alla fine era forse il vero fulcro musicale del gruppo. Di quella brutta esperienza resta per fortuna il ricordo divertente di un vigile urbano su di un Ducati Monster che non riusciva a governare sulla pioggia, un po' poco. Come da copione, pochi mesi dopo il gruppo si scioglieva definitivamente, ed allora forse sarebbe stato meglio non vederli affatto. Scusa, ma la capacità di sintesi non è tra le mie doti maggiori. Ne approfitto per chiederti maggiori informazioni sui Controller, album, nome dei brani più famosi. Lo farò, via mail. Riprendendo le parole di Alessandro. Già che ci sono, voglio anche dirti quello che è stato il miglior concerto della mia vita. In realtà sono due, ma quello dei Black Crowes, Three Snakes and Tour, ero troppo drogato per essere obiettivo. Bruce Springsteen, senza dubbio, 3 anni fa a Firenze. Ero andato contro voglia, ma con un biglietto regalato, favoloso. La E Street Band è stata qualcosa di sconcertante. Ciao, e sempre grazie per la buona musica. Oh, I've been gone with Darlene in a tragical part of the night. But I wish she would bring me a place in morning spectacular light. Make her last just a few brothers, new brothers, lovers proclaim. Down at the subway station, just a few brothers, mothers remain. Oh, help the children. The television station, mama, your boy getting tired. But baby, you ain't trying to warn me that the maitre d' getting fired. Just like those boys down there second off here, though he said, oh, oh, oh. Just like the funny little lady, mama, dining green, just like butter. Yeah. Everybody know no no net King Cole, no no net King Cole, no no net, no no net, no no net King Cole, baby. You're giving birth to a jealous lover lady. The situation is out of your hand, mama. A funny little lady and Johnny Leguizamo, they're gonna get me, mama, going home now, yeah. Now I've been monkeying around, but a bebopping freewheeling guy. But this weed Adam Green found his motel is how I get by. I got a hole in my barrel, Cheryl, she left me out in the cold. I got 101 fever, mama, should not be acting so old. She acting so old now, girl. Oh, Eclettica nella sua quarta parte della 28ª settimana sulle frequenze di Rock FM. Questi erano The Broken Family Band da Cambridge, Inghilterra. Incidono per la Track and Field, sono appena usciti con un disco dal titolo Balls, dal quale noi ci siamo ascoltati It's All Over. Giulio at radiorockfm.com è l'indirizzo di mail a cui scrivere per tanti motivi. Uno fra questi è quello di essere parte della lista nera. Ora Hélène, sempre Inghilterra. Thank you. Già in altri tempi si diceva la collina, come avremmo detto il mare o la boscaglia. Ci tornavo la sera, dalla città che si oscurava, e per me non era un luogo tra gli altri, ma un aspetto delle cose, un modo di vivere. Per esempio, non vedevo differenza tra quelle colline e queste antiche dove giocai da bambino e adesso vivo. Sempre un terreno accidentato e serpeggiante, coltivato e selvatico, sempre strade, cascine e burroni. Questo era l'incipit della casa in collina di Cesare Pavese. Thank you. strongly evokes memories of the past. Well, screw the past. That's why I want to spend my life with you. That's why I want to spend my life with you. That's why I want to spend my life with you. That's why I want to spend my life with you. That's why I want to spend my life with you. That's why I want to spend my life with you. That's why I want to spend my life with you. That's why I want to spend my life with you. Betty Lee wears Guerlain, but you don't wear no perfume. Katie wears Giorgio, Lily wears Moschino. Jenna wears Kenneth Cole, but you don't wear no perfume. That's why I won't spend my life with you. That's why I won't spend my life with you. That's why I won't spend my life with you. Gli ascoltatori non tanto fedeli, perché magari ce ne sono di nuovi che sono fedelissimi, ma gli ascoltatori di lunga data di Eclettica, ecco, questo è il termine corretto, sanno dell'esistenza di questo fantomatico borsone nero con cui io giungo in radio per realizzare le mie trasmissioni. Borsone nero contiene molta più musica rispetto a quella che poi io riesco a mettere in trasmissione, e la trasmissione si crea live, esattamente come un concerto. Non c'è una scaletta predefinita a priori, ma la trasmissione si crea così, brano dopo brano, e a volte succede che ci siano dei dischi che in quel borsone rischino di perdersi, che sono lì pronti ad essere trasmessi e mai vengono trasmessi. Stava succedendo questa cosa con il disco di Ron e Russell Mile, i due fratelli Sparks. Io me li ricordo quando ancora ero un ragazzo, quindi tantissimo tempo fa, più o meno dovreste sapere quella che è la mia età, molti fra voi più o meno se la immaginano, quindi loro sono parecchio vecchi. Ce li siamo ascoltati con Perfume, da un nuovo disco uscito per la Gut Records. Siamo quasi in chiusura di Eclettica, ci avviciniamo con Jeff Farina. Days pause as I look forward to, like the coffee in my mornings, the tea in my afternoons. Words tend to fail me as I need them most, as your gaze, it just impales me out here on the best coast. When I'm away, easy memories that I sing to the west. But today, nothing to say, though I try my best, though I try my best. Already told you that you're the love of my life, that your smile makes my day. In fact, I told you that twice. Already told you all my platitudes, sang you my interlude. But now that I am here with you, no words will suffice. No, 5 New Yorkers, they wait among bills as neglected blank checks, basking dust on my sill. In those antimazepam, atenolol, and other stray pills. Well, I can't conjure your face in this New England chill, in this New England chill. Searching for a situation with less hurt and affiliation. Do you so feel it when you can't believe your eyes? Welcome to paradise. Paradise. Paradise. Are you longing for infiltration somewhere under the radar in the entire nation? Would you know it even before compromise? Welcome to paradise. Paradise. Paradise. Sometimes drifting can be so stunning, but the current can also be a cunning. If you drift too far from where the shore lies, just getting back is paradise. Paradise. Paradise. Are you middle-aged? Or maybe older, with a creviced face when the season seems colder? Can you ever remember a time easier to separate the truth from the lies? Well then, welcome to paradise. Da un ex siamo passati ad un altro ex, da un ex karate a un ex giant sand, Howie Gelb, Snow Angel, il progetto Like You, l'album Paradise Hereabouts, il brano. Già ci eravamo ascoltati Hey Man e Nail from the Sky, altri due brani da questo disco, che è quello che chiude la 28esima settimana di Eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni. La prossima sarà la 29esima. Vi ricordo l'email giulio@radiorockfm.com. Alla prossima!